adesso che il mio lapis è giunto al termine e la candela è prossima ad andarsene, dipingo con l'ultimo inchiostro questo velo e scrivo come fossi uno scrivano. Ora che i denti dondolano, lascio che le mie palpebre s'abbandonino. Ora che la polvere ha nebbiato i miei ricordi e l'inverno ha attutito il fine udito. Ora che è finita, lascio un documento, un altro testo, un'altra vita.